Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Subito dopo la colazione, Toni si era ritirata in camera sua, perché a tavola la mamma le aveva confermato l'ipotesi che Tom sapesse del suo arrivo e pareva che lei non avesse una gran voglia di incontrarsi subito con lui. Il console salì alle 6 del pomeriggio. Entrò nella stanza dei paesaggi, dove ebbe un lungo colloquio con la madre. «E com'è?» domandò. «Come si comporta?» «Oh, Tom, temo che sia irriducibile. Sai, è tanto irritata.» «Vado io.» «Oh, sì, sì, vai, Tom.» Rapidamente, con la solita fretta, a 2 gradini per volta, Thomas salì al secondo piano torcendosi la punta di un baffo. Ma già mentre bussava, la sua faccia si rischiarò perché era deciso a trattare la questione con spirito finché era possibile. All'avanti, piuttosto addolorato, aprì la porta e trovò sua sorella, tutta vestita, sul letto, con le tendine scostate, il piumino dietro la schiena, una boccetta di gocce digestive sul tavolino da notte. «Signora, a che cosa dobbiamo l'onore di rivedere una cittadina che viene dalla capitale del regno?» «Dammi un bacio, Tom», disse lei sollevandosi e porgendogli la guancia per lasciarsi poi ricadere sui guanciali. «Tom, per me è finita. Sai già tutto.» «Sai tutto?» ripeté lui, ritirando la mano e spostando indietro la sedia. «Santo Dio, che parole grosse! Tutto! Che cosa non è contenuto in questo tutto? Vi affonda anche l'amore e tutto il mio dolore, non è vero? Senti un po'.» Ella taceva. Poi lo sfiorò con un'occhiata molto stupita e profondamente offesa. «Sì, Dio santo, non facciamo tragedie. Parliamo un po' pianamente, senza tanti tutto finito e la vostra infelice Anthony. Per Maneder si è comportato molto male, sarà vero? E sta pur tranquilla che anch'io glielo farò capire.» «Come si sia comportato, caro Thomas?» lo interruppe lei rialzandosi e mettendosi una mano sul petto. «Gliel'ho già fatto capire io. E non solo gliel'ho fatto capire. Secondo il mio modo di vedere, ritengo assolutamente fuori posto qualsiasi discussione con quell'uomo.» «Toni, tu non prendi la cosa abbastanza dal lato comico. La colpa, ben inteso, è del tuo stomaco. Hai sorpreso tuo marito in un momento di debolezza. L'hai visto piuttosto ridicolo, ma tutto questo non dovrebbe indignarti così profondamente. Dovrebbe invece divertirti e accorciare le distanze fra voi due, poiché si tratta di debolezze umane. Ti dirò una cosa. Si intende che tu non potevi approvare il suo contegno con un sorriso e col silenzio, per carità. Sei partita. È stata una protesta un po' vivace, forse, un castigo forse troppo severo. Mi par di vederlo, infatti, come sarà là contrito, ma pur sempre un castigo giusto. Ora, io vorrei pregarti di considerare le cose con meno sdegno e piuttosto da un punto di vista politico. Tom, io non ritornerò a Monaco.» «Come dici?» domandò lui facendo una smorfia, portando una mano all'orecchio e chinandosi in avanti. Lei giaceva supina, la testa affondata nei cuscini, di modo che il mento sembrava sporgesse con una certa gravità. «Mai!» disse. «Toni!» esclamò lui all'improvviso, alzandosi e posando con forza la mano sulla spalliera della sedia stile impero. «Non mi farai uno scandalo!» «Uno scandalo? Tu sei capace di ordinarmi di non fare uno scandalo quando mi si copre di vergogna, quando mi si sputa in faccia? È degno d'un fratello questo?» «Ho capito», osservò lui con calma, e voltandosi sui tacchi si allontanò come considerando chiusa la discussione. «Per dividersi bisogna essere in due, cara mia. E che per Maneder voglia dichiararsi subito pronto a farlo, mi pare un'idea piuttosto balorda.» «Oh, lascia fare a me», disse Toni, senza lasciarsi intimidire. «Tu credi che si opporrà, e precisamente in considerazione dei miei 17.000 talleri? Ma anche Grillich non voleva e lo abbiamo costretto. Ci sono i mezzi e io andrò dal dottor Giseke. È un amico di Christian e mi assisterà. E tu potresti attaccare 2 dozzine di cavalli, ma a Monaco non mi ci porti più. E domani andrò da Giseke.» Spaventato, stordito, quasi scosso, il console taceva. Poi sospirò, alzò le braccia fino all'altezza delle spalle e le lasciò ricadere. «Allora non c'è niente da fare», disse a voce bassa e, volgendosi sui tacchi, s'avviò per uscire. Un battesimo nella Via Larga, un erede, un continuatore della famiglia, un Buddenbrock. Bisogna rendersi conto della sua importanza. Si potrà mai comprendere l'entusiasmo con cui la notizia fu portata dalla Via Larga nella Mengstrasse, appena si ebbe il primo presentimento, appena fu sussurrata la prima parola. Il muto entusiasmo con cui a quella notizia la signora Permaneder abbracciò sua madre, suo fratello e con maggior cautela la cognata. E ora che è giunta la primavera del 61, l'erede è venuto e riceve il sacramento del santo battesimo. L'erede su cui si fondano già da tempo tante speranze, di cui si è tanto parlato. L'erede che si è aspettato e desiderato da anni, che si è implorato da Dio e per il quale si è tormentato il dottor Grabov. Ora è giunto e non sembra un granché. Le sue manine giocano con i cordoncini dorati del corpetto della balia e la testina, coperta di una cuffietta celeste guarnita di merletti, posa sul cuscino e gli occhietti, senza badare al pastore, guardano la sala e i parenti con una intelligenza che si direbbe da adulto. In quegli occhi, le cui palpebre portano lunghissime ciglia, l'azzurro degli occhi paterni e il castano dell'iride materna si sono fusi in un bruno dorato, chiaro, indistinto e cangiante secondo la luce. Gli angoli, però, alla radice del naso sono fondi e immersi in un'ombra azzurrina. Ciò conferisce al visetto, che quasi non si può dire ancora tale, una caratteristica prematura, e non dona molto a una creatura di 4 settimane. Ma Dio farà in modo che non sia un cattivo presagio, perché anche sua madre, che pure sta benissimo, presenta la stessa caratteristica, e comunque sia, la creatura è viva, e la vera gioia di 4 settimane prima fu che fosse un maschietto. Vive, ma potrebbe essere diversamente. Il console non dimenticherà mai la stretta di mano con cui il buon dottor Grabov, allontanandosi un mese prima dalla madre e dal bambino, aveva accompagnato queste parole. «Ringrazi il cielo, caro amico, perché è mancato poco». Il console non ha avuto il coraggio di chiedere a che cosa era mancato poco e respinge con terrore il pensiero che quella creaturina aspettata invano per tanto tempo, venuta al mondo così stranamente silenziosa, avrebbe potuto seguire la sorte della seconda bambina di Antonì. E ora, mentre la balia toglie la cuffia al bambino, Il pastore spruzza due o tre gocce dal bacile d'argento internamente dorato che ha davanti sui radi capelli del piccolo Buddenbrook e pronuncia con lentezza solenne i nomi coi quali lo battezza: Justus, Johann, Caspar. Segue una breve preghiera e i parenti sfilano a uno per imprimere il bacio dell'augurio sulla fronte di quell'essere silenzioso e indifferente. Sesame Weichbrot è l'ultima e la balia deve abbassare verso di lei il bambino. In compenso, Sesame gli dà due baci con un lieve schiocco, dicendo tra l'uno e l'altro: «Caro e buon bambino!» Nelle stanze subentra un grande silenzio. La vecchia signora, con Tony, Erika e Ida, rimangono per ultime. «Ecco, Ida», dice il console, «ho pensato, e anche mia madre è d'accordo, che lei ci ha assistiti tutti un giorno, e quando il piccolo Johann sarà più grandino, adesso ha ancora la balia e dopo questa ci vorrà probabilmente una bambinaia, ma poi le piacerebbe trasferirsi in casa nostra?» «Sì, signor console, se la signora ne sarà contenta». Il progetto piace anche a Gerda e la proposta diventa senz'altro una decisione. Uscendo, la signora Permaneder, che è già sulla soglia, si volta, torna da suo fratello, lo bacia sulle guance e dice: «Questa è una bella giornata, Tom. Io sono felice come non lo sono stata da anni. Grazie a Dio, noi Buddenbrook non siamo ancora all'ultima cartuccia. Chi lo pensa sbaglia di grosso. Adesso che c'è il piccolo Johann, abbiamo avuto una buona idea chiamandolo Johann. Adesso ho l'impressione che debba incominciare ancora una volta un'era nuova». Christian Buddenbrook, il titolare della ditta HCF Burmeister & Company di Amburgo, col cappello grigio all'ultima moda e il bastone giallo con la testa di monaca in mano, entrò nel salotto di suo fratello che stava leggendo insieme a Gerda. Era la sera del giorno del battesimo, alle 9:30. «Buonasera», disse. «Senti, Thomas, devo parlarti d'urgenza. Scusami, Gerda, ho molta fretta». «Sentiamo», disse il console. «Non reggo più», replicò Christian. «Non è un dolore, è un tormento, capisci? Un tormento costante e indefinibile. Il dottor Dregemüller di Amburgo mi ha detto che da questa parte ho tutti i nervi troppo corti. Oh, lascia stare, disse il console freddamente. Non credo che tu sia venuto qui per farmi cotesto discorso. E infatti, Thomas, fosse soltanto questo. Ma non è questo soltanto. Si tratta dell'azienda. Non reggo più. Di nuovo non sei in regola? Il console non ebbe nessuno scatto. Non alzò neanche la voce. Fece la domanda tranquillamente, osservando suo fratello con una stanca freddezza. Oh no, Thomas, e per dire la verità, tanto è indifferente, non mi sono mai messo in regola. In seguito non ho fatto quasi nulla e mi sono mantenuto tranquillo. Ma bisogna pur vivere, e ora ci sono le cambiali e altri debiti, 5.000 talleri. Non puoi immaginare quale sia la mia rovina. E oltretutto questo tormento. Ah sì, ti sei mantenuto tranquillo, gridò il console fuori di sé. In quel momento non poté fare a meno di uscire dai gangheri. Hai piantato la carretta nel pantano e sei andato a divertirti. Credi che non mi figuri come sei vissuto nei teatri e nel circo equestre e nei circoli e con le tue spregevoli donnine? Pensi ad Aline? Ecco, per queste cose tu non hai la sensibilità, Thomas, e forse la mia disgrazia è di averne troppa. In questo punto, infatti, hai ragione. Mi è costata troppo e mi costerà forse ancora parecchio, perché vorrei dirti una cosa, qui siamo tra noi fratelli. La terza creatura, la bambina che le è nata 6 mesi fa, quella è mia. Imbecille. Ma non dirlo, Thomas. Devi essere giusto anche nella tua collera verso di lei e verso... Perché non dovrebbe essere mia? Ma a te non piace sentir parlare di queste cose. Anche adesso te lo leggo negli occhi. E del resto è finita. Ora le dirò addio pur rimanendo in rapporti con lei per via della bambina. Voglio pagare tutti i miei debiti ad Amburgo e poi chiudere. Devi sapere, Thomas, che voglio ritornare a Londra e cercarmi un posto. L'indipendenza non è fatta per me, me ne accorgo sempre più. Troppa responsabilità. Come impiegato, invece, si va a casa la sera senza pensieri. E a Londra ci sono sempre stato volentieri. Hai qualche cosa in contrario? Durante il colloquio, il console aveva volto le spalle al fratello e, tenendo le mani nelle tasche dei calzoni, aveva disegnato con un piede figure sul pavimento. «Bene, vai dunque a Londra», disse semplicemente, e senza neanche voltarsi, piantò lì Christian e si avviò verso il salotto. Ma Christian lo seguì, si avvicinò a Gerda che stava leggendo e le porse la mano. «Buonanotte, Gerda. Dunque, fra poco ritornerò a Londra. È strano come la vita ci butte di qua e di là. Di nuovo nell'incertezza, in una città così grande dove si possono incontrare avventure ogni 2 passi. Strano. Non so se tu abbia provato... È un senso che si ha qui, all'incirca nello stomaco. Molto strano. James Möllendorf, il decano dei commercianti senatori, morì in modo grottesco, raccapricciante. Quel vecchio diabetico aveva perduto l'istinto di conservazione a tal punto che, negli ultimi anni, si era abbandonato sempre più alla passione per le torte e per i dolci. Il dottor Grabow, che era medico di famiglia anche dei Möllendorf, aveva protestato con tutta l'energia di cui era capace, e la famiglia preoccupata aveva sottratto al suo capo con garbata violenza quei cibi ghiotti. Che cosa aveva fatto però il senatore? Indebolito di mente com'era, aveva preso in affitto in uno dei vicoli più umili e plebei una stanzetta, un buco, dove andava a nascondersi per mangiare i dolci. E là fu trovato morto, con la bocca ancora piena di paste mezzo masticate, i cui resti gli avevano macchiato il vestito ed erano sparsi per terra. L'apoplessia aveva prevenuto la lenta consumazione. La famiglia fece tutto il possibile per tener celati i disgustosi particolari della morte. Ma l'attenzione non poteva essere rivolta per molto tempo al passato. Insieme con la prima notizia della morte del vecchio consigliere, si era affacciato un grande problema. Quando poi egli fu sottoterra, quel problema fu l'unico ad agitare tutti gli animi. Chi sarà il successore? Il giovedì in cui, nella solita riunione dei Buddenbrook, si era parlato della morte di James Möllendorf, la signora Permaneder, dopo alcune frasi di cordoglio, aveva incominciato ad agitare la punta della lingua contro il labbro superiore e aveva dato un'occhiata astuta a suo fratello. La qualcosa aveva indotto le signorine Buddenbrook a scambiarsi sguardi pungenti e a chiuder poi tutte insieme per un secondo, come a un comando, gli occhi e le labbra. Il console aveva risposto all'occhiata furba della sorella, dando poi un'altra piega alla conversazione. Sapeva come in città si caldeggiasse quel pensiero che Tony covava beata in cuor suo. Sulla lista si affermavano il console Edward Kinstemacher, il negoziante di vino, e il console Hermann Hagenström. Ma fin da principio si ripeteva continuamente il nome di Thomas Buddenbrook. «Dio mio, Tom, se toccasse a te! Se il nostro stemma entrasse nella sala d'armi del municipio, morirei dalla gioia! Vedrai che cascherò per terra inanimata!» «Oh, via, cara Tony, bada di essere più sostenuta e coraggiosa. Sono qualità che di solito non ti mancano. Anche senza essere senatori siamo qualche cosa, e spero che resterai viva in un caso o nell'altro». L'agitazione, le consultazioni, il cozzo delle opinioni continuarono. Sigmund Kosch, il vecchio mediatore, girava intorno come un leone ruggente e si dichiarava pronto a strozzare senz'altro chiunque non fosse disposto a votare per il console Buddenbrook. «Il console Buddenbrook, cari signori, che uomo! Io sono stato a fianco di suo padre quando nel 48 placò con una parola il furore della plebe scatenata. Se ci fosse giustizia a questo mondo, già suo padre, già il padre di suo padre, avrebbero dovuto far parte del Senato!» In fondo, però, non era tanto la personalità del console Buddenbrook quella che faceva divampare il cuore di Gosch, ma piuttosto la sua giovane consorte, Nata Arnoldsen. Non che il mediatore avesse mai scambiato una parola con lei, ma Gerda Buddenbrook aveva appena fatto la sua comparsa in città allorché lo sguardo del cupo mediatore, sempre alla ricerca di cose straordinarie, l'ebbe adocchiata. Da quel momento i suoi pensieri si aggiravano intorno a quella signora nervosa e molto riservata, alla quale nessuno lo presentava, come la tigre gira intorno al domatore. Quel mondo mediocre non gli offriva alcuna possibilità di commettere per quella donna un atto di orribile infamia del quale egli, gobbo, truce e avvolto nel suo mantello, si sarebbe assunto la responsabilità con satanica indifferenza. Le noiose consuetudini di lei non gli consentivano di innalzare quella donna su un trono imperiale mediante delitti, assassini e sanguinose astuzie. Ella non gli lasciava altra possibilità che quella di votare in municipio a favore di suo marito, di quell'uomo rabbiosamente venerato.